24 mattino di Alessandro Milan. Quando sono le 7:19 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9, ancora ben ritrovati, una buona giornata. Le nostre coordinate per i vostri messaggi: il 349-238-6666, la mail 24mattino@radio24.it. Allora, di che cosa parliamo nel nostro sondaggio delle 8:30 che potete già votare su radio24.it? Oggi parliamo dei nostri amici animali. Perché? Perché l'Unione Europea, il Parlamento Europeo per la verità, ha stabilito nuove regole per la ricerca scientifica e l'utilizzo degli animali. Quella brutta parola, no, per alcuni, vivisezione. E allora, vivisezione in nome della ricerca scientifica, voi siete d'accordo? Ne parleremo poi alle 8:30, perché gli animalisti accusano il Parlamento Europeo ha dato il via alla possibilità addirittura di sperimentare su cani e gatti randagi. Sarà così? In ogni caso, in nome della ricerca scientifica, gli esperimenti sugli animali, siete d'accordo oppure no? Votate su radio24.it, ne parleremo più tardi, ed ora, come di consueto, la lettura dei giornali. In primo piano. Venerdì 10 settembre. L'apertura dei vari giornali, vediamo una carrellata dei titoli. Il Sole 24 Ore apre sull'economia, la crescita perde slancio. Questo è il titolo di apertura di prima pagina. La BCE, salari più flessibili nei paesi con scarsa competitività. È una lettura ovviamente dei dati dell'OCSE, per cui in Italia il PIL giù dello 0,3% nel primo trimestre, mentre Tremonti dice al sud prima lo Stato, poi il federalismo. C'è uno sguardo internazionale per Corriere Repubblica alla vigilia dell'11 settembre. Corriere della Sera, Obama ferma il rogo del Corano. Ce l'ha fatta, insomma, a fermare quel reverendo che voleva fare quella grande idiozia, bruciare il Corano domani. Anche per Repubblica, Corano, interviene Obama, il pastore rinuncia al rogo. Per La Stampa invece, Napolitano sciolga la Camera, è un'intervista a Calderoli, nuovo attacco di Calderoli. Il Giornale invece fa un nuovo attacco a Fini, Monte Carlo, arrivano le carte, le autorità di Monaco hanno quasi concluso la raccolta dei documenti da inviare alla Procura di Roma. Per il Fatto Quotidiano, 2010 fuga dal TG1, la polemica con Minzolini. Mentre l'Unità mette in prima pagina Berlusconi e Putin, sotto sviluppo, la bufala di Berlusconi, aveva detto il ministro entro una settimana allo sviluppo economico, invece no, beffati Quirinale e Confindustria. E intanto vola nella dacia di Putin, rifugiato in Russia. Ecco perché la foto con Putin in prima pagina. Vedremo poi altre prime pagine più avanti. Io voglio tornare, ieri mi aveva molto colpito questa frase che il Corriere anticipava di Giulio Andreotti sulla morte di Ambrosoli, no? Se l'andava cercando. Poi, come vedete, è deflagrata la polemica durante la giornata su questa frase di Andreotti, che ha detto così dell'avvocato Giorgio Ambrosoli, ucciso l'11 luglio del 79 da un sicario mandato dal banchiere Michele Sindona. Allora, Andreotti che dice ora: sono stato frainteso. Il senatore a vita era un gergo romanesco. Io voglio segnalare, c'è varie pagine sui giornali, c'è anche un'intera pagina, a pagina 13 del Sole 24 Ore, Ambrosoli un eroe tragico, c'è il ricordo di Mario Sarcinelli estratto dal volume Giorgio Ambrosoli e Paolo Baffi, edito dalla Bocconi. C'è anche un ricordo di Dino Pesole, Andreotti e una frase contro la storia. Scrive Pesole: lo stile tagliente, sarcastico, a tratti cinico. Andreotti ne ha offerto ieri un'ulteriore dimostrazione in quella risposta, quando ha detto appunto se l'andava cercando. Con una battuta gettata lì da un uomo che per 7 volte è stato presidente del Consiglio e secondo i suoi detrattori è stato uno dei grandi burattinai della cosiddetta Prima Repubblica, l'avvocato Ambrosoli, ucciso l'11 luglio 79, l'eroe borghese del celebre libro di Corrado Staiano, viene assimilato a uno che se l'è cercata. E poi Andreotti, ripeto, ha precisato, ma ci sono anche vignette sarcastiche, per esempio Staino a pagina 3 dell'Unità. E Andreotti, chiede la figlia di Bobo, visto, ha dovuto aspettare 91 anni per riuscire a dire una cosa che pensa davvero. Anche Filippo Facci, in prima pagina su Libero, nel suo tradizionale appunto, scrive così: ma Benedetto Giulio, 91 anni in salsa arcivescovile, sempre perfetto, mai una sbavatura, ha mantenuto una frequenza cardiaca alla Valery Borzov anche quando il paese si tingeva di rosso brigata, o peggio, lo additava come il capo di tutti i mafiosi. E adesso in zona Cesarini, anzi in zona Ambrosoli, gli scivola una frase che non sarebbe scivolata neanche a un leghista incazzato dopo una sconfitta dell'Atalanta. Ambrosoli se l'è andata cercando. E hai voglia a smentire come un qualsiasi dilettante della Seconda Repubblica. Col rischio che ci si dimentichi le cose buone che legano Andreotti ad Ambrosoli. Per esempio, la sua reazione quando gli dissero che Ambrosoli era stato minacciato. Nessuna, annotò l'avvocato di Sindona. O per esempio ciò che annotò sul suo diario, con virulenta passione civile, nel giorno in cui Ambrosoli fu trucidato. Oggi, scrisse il divo Giulio, ho incontrato il presidente della Tanzania. Nient'altro. L'omicidio di Mino Pecorelli, però, se l'era segnato. Parliamo del primo ministro Andreotti che incontrò l'avvocato di un latitante, Sindona appunto, e che poi lo spedì a interloquire col piduista Gaetano Stammati in un simpatico intreccio di mafia, massoneria, P2, DC e Vaticano. Benedetto Giulio, ma che volete da lui? Gli è solo scappata una battuta a 90 anni. Doveva scappargli a 60? E su questo, insomma, le polemiche su questa frase di Giulio Andreotti oggi continuano sui giornali. Prima, devo dire, un altro personaggio, certo, importante, storico, che alla fine dei suoi giorni, alla fine degli ultimi anni della sua vita, ha fatto un'altra intervista sconvolgente, dopo aver detto è sbagliato nella mia Cuba, è stato sbagliato perseguitare gli omosessuali. Ora, Fidel Castro ha fatto un'intervista al giornale, al mensile The Atlantic americano. Beh, davvero un'intervista shock, come riportano tutti i giornali. Ha detto che cosa? Il socialismo non funziona. L'ultima scossa di Fidel, intervista shock del leader Massimo, la leggo su Repubblica, ma la trovate ovunque. Che cosa ha risposto al giornalista Jeffrey Goldberg della rivista americana The Atlantic, che ha trascorso con lui vari giorni a chiacchierare sulla situazione cubana? La frase è la risposta a una domanda sulla possibilità o meno di esportare il modello cubano ad altri paesi. La risposta di Fidel Castro è questo: la domanda non è pertinente, perché quel modello economico non funziona neppure da noi. Beh, davvero, una missione incredibile che già tutti stanno leggendo, anche gli analisti di Cuba, come dire, sarà mica un messaggio a Obama? Insomma, da Andreotti a Fidel Castro, a volte si arriva a un'età in cui, che ne so, ci si può ravvedere o dire delle cose che non si è detto mai per anni. La pubblicità e il meteo, poi ripartiamo. In primo piano. Quando sono le 7:35 minuti, eccoci qua nuovamente per la lettura dei giornali. Come detto, la politica ancora ha ampio risalto. Qual è la situazione politica? Beh, abbiamo visto che Umberto Bossi ieri ha un po' rallentato dopo aver detto al voto, ora dice non faremo comunque mancare i voti a un'eventuale fiducia alla Camera. Bisogna leggere il Corriere della Sera e il Foglio per capire la situazione politica. Intanto il Foglio, Silvio Berlusconi scrive nella nota prima pagina la situazione. Silvio Berlusconi ha ripreso l'iniziativa politica, ha legittimato gli sforzi diplomatici delle colombe, per il momento è riuscito, nonostante alcuni umori ancora torvi della Lega, a tacitare il partito dei rinfocolatori. Non ha recuperato la totale tranquillità di governo, ma ha posto le premesse per riuscirci. L'obiettivo è una seconda fase nella quale restituire centralità al suo PDL, sottraendo a Bossi il ruolo di ago della bilancia. Questo secondo il Foglio, sapete, qualcuno dice Giuliano Ferrara si è molto avvicinato a Fini negli ultimi tempi, e dunque scrive il Foglio una centralità del PDL da recuperare e invece arginando la forza della Lega che ancora, anche se un poco meno enfasi rispetto all'altro ieri, chiede di andare alle elezioni. E infatti Francesco Verderami sul Corriere della Sera fa una lettura simile, e cioè Letta e l'ultima mediazione sulla giustizia. Il Cavaliere riaprire a Fini, idea residuale. Però, scrive Verderami, è Gianni Letta, ma sembrava Gino Bartali, mentre l'altra mattina diceva con foga a Silvio Berlusconi che nella sfida con Gianfranco Fini tutto era sbagliato, tutto andava rifatto. Era Gianni Letta, ma il tono della voce era quello dei momenti critici. A un passo dal baratro riteneva fosse giunto il momento di usarlo. Così si è rivolto al Premier spiegandogli che in politica non basta aver ragione, e tu ne hai, se poi si commettono errori anche molto gravi, perché a giudizio di Letta, nello scontro col cofondatore del PDL, l'uomo del fare, si era lasciato trascinare nell'agone della polemica. La sua immagine positiva era stata sostituita da una figura irriconoscibile e vendicativa, e il leader, che diventa concavo o convesso a seconda delle situazioni, aveva perso la sua proverbiale vocazione all'ottimismo. Ecco allora che, secondo Verderami, Letta ha affrontato Berlusconi dicendo: guarda che così, anche se hai ragione, appari in maniera sbagliata. E con fare concitato il Premier gli ha risposto: quello, riferito a Fini, mi vuole politicamente morto, sostenendo di avere elementi certi di un rapporto tra l'inquilino di Montecitorio e i magistrati per colpirlo. Per quanto cruda sia stata la conversazione, al termine del colloquio il Cavaliere ha lasciato un margine a Letta alla sua ipotesi di mediazione, che gli appare però residuale. E quale sarebbe la mediazione? Scrive sia il Corriere sia Repubblica. La giustizia, sempre la partita della giustizia, cioè ora che Fini ha incassato anche per Repubblica Francesco Bei il fatto che la legge sulle intercettazioni sia stata archiviata, ecco che allora Berlusconi ha rilanciato sulla giustizia: serve uno scudo per il Premier, se c'è uno scudo e i finiani lo votano, ecco, questo sarebbe, diciamo, il compromesso per cercare un residuale tentativo di ricomporre la situazione e gli equilibri all'interno della maggioranza. Intanto però, e questo lo dicono e lo scrivono tutti i giornali, che cosa sta facendo Silvio Berlusconi? Si sta attrezzando per un eventuale rischio che i voti alla Camera non ci siano. A questo proposito starebbe cercando di ottenere l'appoggio di tutta una serie di parlamentari perché votino l'eventuale fiducia. Come viene titolato da Libero, addirittura in prima pagina, la legione straniera di Silvio. Così sarebbe stata nominata, il tentativo di Silvio Berlusconi di convincere diversi parlamentari a votarlo. Silvio, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, chi sono? Per esempio quelli di Südtirol Volkspartei, dell'MPA di Lombardo, alcuni che sono, insomma, un po' isolati. C'è per esempio il gruppo degli ex diniani, sono credo un 3 o 4, le minoranze linguistiche per l'appunto, Noi Sud, Repubblicani e Popolari, cioè una serie di parlamentari, una ventina secondo Libero. Silvio trova 20 deputati per blindare la Camera, che potrebbero votare a suo favore e quindi annullare un eventuale voto contrario da parte dei finiani del gruppo Futuro e Libertà. Gran regista di questa manovra, secondo Repubblica, sarebbe il leader dei Repubblicani Francesco Nucara, che tra l'altro a Repubblica dice: lunedì incontrerò proprio Berlusconi. Come procede la campagna acquisti? Chiede Carmelo Lopapa a Francesco Nucara. Nessuna campagna acquisti, da repubblicano della prima ora sono poco interessato ai numeri, molto invece ai principi. E quale sarebbe il principio? Il bene del paese, per dirla con Ugo La Malfa. Non possiamo permetterci una crisi di governo, significherebbe vedere impennare il debito pubblico, crollare i BOT e i CCT, rischiamo il tracollo in pochi mesi. Ed ecco Francesco Nucara che dice: non è una campagna acquisti, penso ai valori, a evitare le urne, e andrò appunto da Berlusconi lunedì per fare il punto. E ovviamente ci sono le persone che dicono, chi dice sono stato contattato, è vero, ci sarebbe il pressing per esempio su due finiane, Suad Sbai e Katia Polidori. L'eletto all'estero Merlo rivela: mi hanno chiamato, però io resto con l'opposizione. Secondo Repubblica ci sarebbe stato anche un tentativo fallito con un esponente addirittura dell'Italia dei Valori, l'onorevole Razzi, eletto anche lui all'estero, ma ha detto a Repubblica: sono coerente con le mie idee, resto responsabile dell'Italia dei Valori all'estero. Insomma, secondo i giornali c'è un tentativo di convincere alcuni deputati a passare o comunque a votare dalla parte di Silvio Berlusconi. Mentre la Lega, abbiamo detto che da una parte Bossi un po' ha frenato, non faremo mancare i voti della fiducia, invece c'è Calderoli che in questa intervista, pagina 3 della Stampa, dice: al primo voto sulla fiducia usciremo dall'aula. Intanto dice Napolitano potrebbe sciogliere le camere oppure anche una sola, dice Calderoli, e poi suggerirò a Umberto Bossi di non partecipare alla prima chiamata sulla fiducia ma di partecipare solo alla seconda e verificare se questa maggioranza dipende solo dai Fignani e quindi a quel punto si potrebbero prendere le decisioni conseguenti. Questo per quel che riguarda il centrodestra, mentre il centrosinistra, secondo il Corriere, ferve su che cosa? Un tentativo anche in questo caso di creare quello che è stato definito il nuovo Ulivo, e avrebbe fatto arrabbiare molto quello che Bersani avrebbe fatto, secondo il Corriere della Sera, o starebbe cercando di fare, vale a dire coinvolgere anche i cosiddetti cespugli verdi, socialisti, Rifondazione Comunista, comunisti italiani, in vista delle prossime elezioni politiche. Cioè lo scambio elettorale sarebbe questo: mettiamo un po' di voi, un po' di Fondazione, dei Verdi, alti nelle liste, che con l'attuale legge elettorale verrebbero eletti in Parlamento, in cambio di che cosa? Voi votate alle primarie Bersani. Ferrero e Di Liberto nelle liste del PD, l'ira di Veltroni. L'ex segretario Veltroni dice ai suoi: è minata la ragione fondativa del partito. Cioè Bersani, secondo i veltroniani, starebbe cercando di ottenere l'appoggio alle primarie per sé in cambio di far entrare in posizioni alte, quindi eleggibile alla Camera nelle eventuali prossime elezioni, uomini di Paolo Ferrero, di Fondazione, dei Verdi, dei socialisti, dei comunisti italiani. Prove di nuovo Ulivo? Si vedrà. Intanto voglio citare un'intervista, e da qui ripartiamo dopo il traffico, a Marina Berlusconi, la presidente di Mondadori. Il conflitto di interesse della Mondadori? Basta con l'eroismo a tassametro. Marina Berlusconi, che parte a parlare di quella legge accusata di essere una legge ad azienda, ma per chiudere un contenzioso fiscale soprattutto per Mondadori. Chiudiamo il contenzioso fiscale che ci trasciniamo dietro da 20 anni, le pare normale, dice Marina Berlusconi in questa intervista a Daniele Manca sul Corriere della Sera, e basta con questi latinismi orribili, allora ne uso io, è una legge ad aziendas, perché è una norma che restituisce certezze a tutto il sistema delle imprese. Se le leggi sono sacrosante, cosa si vorrebbe, che le nostre aziende non le utilizzassero perché fanno capo alla famiglia Berlusconi? Questo sì che è il vero conflitto di interesse, quello all'incontrario. Parla un po' a tutto campo Marina Berlusconi dopo il traffico. In primo piano. Mondadori è un gruppo editoriale libero, fatto di grandi professionisti, che ha il rispetto più assoluto della libertà d'espressione dei suoi autori, che non ha mai censurato una parola a nessuno. Così Marina Berlusconi, intervistata da Daniele Manca, in un'intervista di un'intera pagina 15 del Corriere della Sera, parla della vicenda di questa legge che serve a chiudere il contenzioso fiscale per le aziende che hanno avuto ragione nei primi due gradi di giudizio, e che qualcuno accusa è stata fatta una legge apposta per la Mondadori, tanto che lo scrittore teologo Vito Mancuso ha detto: io non so più se posso scrivere per un'azienda che si fa fare una legge ad aziendam, per l'appunto. Vada a spiegarlo infatti al professor Mancuso, chiede Daniele Manca. Sui turbamenti interiori del professor Mancuso, risponde Marina Berlusconi, mi pare che la Mondadori abbia già detto quello che c'era da dire. Certe sue affermazioni, devo confessarlo senza offesa per nessuno, mi hanno ricordato di quando io ero una bambina e c'era chi non voleva più bere la Coca-Cola per boicottare quei guerrafondai degli americani. Beh, fu un modo di porre il problema, come ha fatto lo scrittore. Lasciamo perdere. Mi ha anche molto colpito il suo eroismo a tassametro. Sono l'unico che ha il coraggio della coerenza, ma non c'è fretta. Anche la coerenza può attendere. Prima di scendere voglio finire la corsa e consegnare l'ultimo libro a Mondadori. E poi dice: ma non sarà colpa di Mancuso, i giornali hanno dato spazio alla polemica. Veramente, risponde la Berlusconi, a dare il là è stata al solito Repubblica. E a proposito, sentite cosa dice di De Benedetti: mi faccia dire, L'ingegner De Benedetti predica bene, razzola male, anzi malissimo. Vuole un esempio? Si presenta come il paladino della libertà di stampa, il campione dell'informazione senza bavaglio. E poi abbiamo visto tutti come Repubblica, pochi giorni fa, ha dato la notizia delle sanzioni Consob per l'insider trading in famiglia. Ricordava la Pravda dei tempi d'oro. Sfido chiunque a capire dalla titolazione che tra i personaggi coinvolti c'erano parenti stretti dell'ingegnere. Sarà perché a Repubblica non piace il tema guai e cognati? E tra l'altro su questa frase guai e cognati si dà lo spunto per parlare anche della vicenda Fini. La Berlusconi dice: io non faccio il tifo per un certo modo di fare informazione, si riferisce alla campagna del giornale. Ma qualcuno mi deve spiegare perché quando i giornali mettevano sotto processo in modo vergognoso la vita privata di mio padre sentivo solo grandi applausi alla libera stampa. Quando invece si chiedono legittimamente chiarimenti su vicende che private non sono, perché ci sono di mezzo i beni di un partito, ecco che si grida il complotto, addirittura la lapidazione islamica. Questa è la frase a cui ha fatto riferimento Fini. E poi di politica dice: vabbè, guardate, Fini è un oratore abile, però avrebbe dovuto scegliere i termini con cura. Fra i due, quello che in fatto di ideologie assolutiste può vantare innegabili frequentazioni, cioè tra lui e Berlusconi, è di sicuro lui. Mio padre ha portato in questo paese una vera e propria ventata di libertà. Poi dice di politica, ho già detto troppo, e infatti si ferma. Marina Berlusconi, intervistata sul Corriere della Sera. Io voglio prendere in mano la prima pagina del Sole, parlando un po' di economia, la crescita che perde slancio, una ripresa internazionale che perde slancio tra i paesi del G7, questo certifica l'OCSE. L'Italia è proprio quello che nella seconda parte del 2010 risulterà in maggiore affanno, ne scrive con molta precisione Rossella Bocciarelli a pagina 3 del Sole 24 Ore. E questo è quello che si ricava dal rapporto interinale dell'OCSE, con anche alcune dichiarazioni di Piercarlo Padoan, che è il capo economista dell'organizzazione parigina. È ancora difficile da capire se questo indebolimento della ripresa internazionale sia temporaneo o il segnale di debolezze sottostanti più profonde, dice Padoan. E come interpretare queste cifre? Beh, lo stesso Padoan fornisce la chiave di lettura. In Italia non c'è una crescita negativa, piuttosto una crescita molto bassa, vicino allo zero. Ma ciò che deve preoccupare non è tanto quel meno zero virgola, ma i problemi strutturali di lungo periodo oltre all'alto debito pubblico. Non è economia, ma chiaramente è legato a questo perché è stato collegato da chi ha promosso questa azione decisamente violenta, quello che è successo al segretario della CISL Bonanni un paio di giorni fa, l'aggressione con un fumogeno alla festa del PD a Torino. E tra l'altro oggi ci sono ancora tante pagine dei giornali dedicate a questo. Epifani, come ricorda Giorgio Pogliotti sul Sole 24 Ore a pagina 5, dice: attenzione perché ci sono i rischi per un conflitto sociale, un autunno caldo, bisogna abbassare i toni, cosa che non ha fatto certo il ministro Brunetta, anima squadrista nel PD. L'aggressione di Bonanni, e anche il Sole vi dedica Collina Palmerini a pagina 5, appunto la polemica innescata da Brunetta, che ha detto: l'aggressione di Bonanni mostra che dentro la cultura e l'anima vera del PD si mantiene una componente squadrista, reazionaria, estremista e conservatrice. Potete immaginare le polemiche. Il segretario Bersani ha detto: chiamate il 118, ovviamente si sono alzati i toni, quei toni che dovrebbero stare bassi secondo Epifani si sono subito alzati dopo questa dichiarazione. Il Corriere della Sera va a intervistare anche chi? Il magistrato Sergio Affronte, che in questa vicenda c'entra semplicemente in qualità di padre, perché la ragazza del centro sociale a Scatasuna di Torino, che è stata fermata e denunciata a piede libero, 24 anni, per avere lanciato quel fumogeno che ha bruciato il giubbotto di Bonanni, è sua figlia. Dottore, ha parlato con sua figlia? Certo che ci ho parlato, ci siamo sentiti mezz'ora, non le ho chiesto niente dell'accaduto, né tantomeno se fosse stata lei a lanciare quel fumogeno. Credo sia giusto così per uno come me, che fa il magistrato. Sergio Affronte, 50 anni, uno dei PM più stimati a Prato. Cosa le ha detto sua figlia? Abbiamo parlato di valori morali, etica nella politica, fatti personali. Era turbata? Non le posso e non le voglio rispondere. Ha un ruolo da rispettare, questa mia professione, intendo onorarla. Lei crede sia colpevole? Non credo niente. C'è un filmato, si vedono scontri, sedie che volano, testimoni, indagini. Una sola cosa posso dire. Ho letto che mia figlia era stata fermata, un errore grossolano. Mia figlia è stata denunciata a piede libero. Sua figlia ha mai manifestato violenza? Mai. Rubina, così si chiama, è stata educata sin da bambina al rispetto del prossimo, alla tolleranza, alla non violenza. Da molti anni lavora in alcune associazioni di volontariato, si è sempre adoperata a favore del prossimo. Questo è il ritratto di Rubina a fronte, la ragazza fermata, che il Corriere dice è una convinta ecologista, sostenitrice della battaglia NOTAV, diploma all'Istituto d'Arte, studentessa di psicologia, capolista del collettivo autonomo della sua facoltà. 258 amici su Facebook, l'iscrizione a gruppi pubblici contro gli sfratti in difesa dei centri sociali in omaggio all'antifascismo, oggi è una traccia sul web. Va bene, così ci fermiamo. Dovete votare su radio24.it. Parliamo oggi di vivisezione, un termine brutale, lo so, ma l'Unione Europea ha deciso di fare nuove regole sulla ricerca scientifica e l'uso degli animali per gli esperimenti. Vi chiediamo ricerca scientifica, l'uso degli animali in nome della ricerca scientifica. Siete d'accordo? Radio24.it, a dopo. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui. Protagonista della nostra intervista è il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, Roberto Placido, che saluto, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Del Partito Democratico. Senta Placido, lei ha denunciato nei giorni scorsi che cosa? Una parentopoli in terra piemontese, cioè ha scoperto che cosa? Sembra strano, ma è così, perché spesso si è abituati a altre regioni del nostro paese, che diversi parenti, figli, mogli, fratelli, sorelle, figlie di, sono state assunte nel rispetto della legge, nelle segreterie dei gruppi consigliari, nelle segreterie degli assessori, del presidente della giunta regionale. Cioè ci sono alcune, ha fatto anche un elenco, no? Ci sono assessori, sì, o consiglieri. Molto dettagliato, voglio precisare, non le solite cose così. Pettegolezzi, ma tutte con documenti ufficiali. Per esempio il record, ieri era ospite a Zanzara Maurizio Lupi, capogruppo dei Verdi Verdi in consiglio regionale, con lui lavorano la figlia, la moglie e due fratelli. Sì. Però tutto nel rispetto della legge. Sì, cioè. Ma perché la legge permette nei gruppi consigliari, nelle segreterie degli assessori, dei presidenti, di assumere persone, anche per un rapporto fiduciario, quindi comprensibile, a tempo determinato o con contratto di collaborazione. Perché hanno professionalità o c'è un rapporto di fiducia. Più fiducia per un figlio, una moglie. No, è come si usa dire, i figli sono pezze e core, quindi non... posso capire, però questo ha superato ogni limite, perché capisco la discrezionalità, capisco la fiducia, capisco l'appartenenza politica, stiamo parlando di gruppi politici o di assessori di un determinato partito, ma così è troppo, perché quando c'è la cosa poi che infastidisce per quanto mi riguarda è che spesso gli stessi che si ergono a paladini del rigore, del contro la partitocrazia, contro i partiti della Prima Repubblica, io ce l'ho in particolare col capogruppo della Lega Nord che mette la figlia a lavorare nella segreteria del presidente della giunta regionale dello stesso partito, all'assessore all'ambiente che mette la moglie dall'assessore ai trasporti, sempre in questo caso del PDL, sì. Di tre consiglieri regionali del PDL che prendono la sorella, la figlia e la sorella della presidente della provincia di Asti, sempre del PDL, che contemporaneamente è anche parlamentare. Un intreccio normale, l'onorevole Armosino, un intreccio normale, non male, lei dice. Ecco. Lei ha fatto anche una proposta a questo punto, sì, vuole proporre firmato ieri, fra oggi e lunedì scrivo a tutti i consiglieri regionali. E cosa dice questa proposta? La proposta di legge dice semplicemente che non è possibile assumere nelle segreterie dei gruppi consigliari, nelle segreterie degli assessori dei presidenti, parenti fino al secondo grado di parlamentari europei, nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali, assessori, sindaci. c'è bisogno Però questo è razzismo, cioè cos'è, una colpa? Non è razzismo, è una colpa essere figlio di qualcuno. Siccome sono rapporti fiduciari, non si entra con concorso. Uno se li sceglie, cioè il consigliere se li sceglie. Però nel momento in cui chi è ministro della cosa pubblica dovrebbe dare l'esempio, in particolare in una regione come il Piemonte, che ha personalità illustri che hanno fatto del rigore e del comportamento etico la loro vita e sono stati da esempio. Guardi che ieri Lupi difendeva, alla Zanzara difendeva le sue scelte, diceva è mio diritto, io ho fiducia in mio figlio, in mia moglie. La simpatia per Maurizio Lupi ha fondato un partito famiglia, un partito azienda, ma non è possibile. Cioè nel momento in cui ci sono centinaia di migliaia di persone che cercano un lavoro drammaticamente, non è che è possibile che altre abbiano non delle corsie preferenziali delle autostrade. Qualcuno dice però lei Placido ha scoperto l'acqua calda, insomma che teniamo un po' alla famiglia in Italia, insomma. Un livello così non si era mai verificato. Qualcosa si sapeva, uno, due, ma in questi termini, quindi c'è bisogno di dare un segnale forte, io mi auguro che devo dire che ho ricevuto segnali di condivisione da molti consiglieri regionali di tutti e due gli schieramenti, perché come dire, il senso della misura di un comportamento etico, io continuo a sottolineare questa parola, non appartiene, come dire, non è esclusiva proprio solo di una parte. Sì. Tra l'altro, ecco, per concludere, l'assessore al personale Giovanna Quaglia della Lega ha fatto un'intervista oggi al Riformista dicendo: ho letto tutta la vicenda, il presidente Cota ha detto che vuol subito fare un codice etico per porre un argine a questa cosa. Sono contento, uno degli obiettivi era quello di sollevare, perché anche il presidente Cota, che si prende il suo addetto stampa, la moglie lavora poi con l'assessore Giordano, tutti e due della Lega. C'è bisogno di mettere un freno, anche se l'assessore Quaglia dice però anche nel PD lavora il nipote del presidente Scalfaro, per esempio, nel gruppo del PD, cioè si potrebbe ragioniamo. Io non è che questo vale per la Lega e il PDL, no? Non è che una legge solo per una parte. Quando ci sono problemi ci sono per tutti. Certo. Uno a 10 vale anche per loro, non è che ma vado a verificare, perché da una prima come si dice, da una prima verifica ho chiesto, cioè, ci sono parenti o altri, non ci sono. Vabbè, verifichi questo lo verificherò, il nipote del presidente Scalfaro, e ve lo farò sapere. Va bene. Per correttezza no, così giustamente sappiamo di tutti. La ringrazio, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte. Grazie, Roberto Placido, che vuole porre un argine a questa possibilità dei politici di scegliersi tra i collaboratori, e tra i collaboratori che si scelgono molto spesso il marito, la moglie, il figlio, la figlia, e li mettono lì. Va bene, allora noi parliamo nel nostro sondaggio radio24.it di... una parola brutta, già si trema, vivisezione. Parliamo dei nostri animali, amici, anche cani e gatti, perché l'Unione Europea ha stabilito le nuove regole per l'uso degli animali nella ricerca scientifica. È il tema del nostro sondaggio, vi chiediamo, vivisezione in nome della ricerca scientifica. Siete d'accordo? Tra poco. 24 mattino. Sono le 8:34 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, eccoci con il nostro sondaggio. Oggi parliamo di animali, dei nostri amici animali, ma parliamo di animali e ricerca scientifica. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Perché al Parlamento europeo hanno stabilito con una direttiva tutte le regole per l'utilizzo degli animali in funzione di ricerca scientifica. Io uso questa parola che fa anche molto scalpore, vivisezione, anche se la scienza dice è un po' scorretto ormai parlare di vivisezione. L'obiettivo dell'Unione Europea certamente è di ridurre al massimo le sofferenze e il dolore degli animali usati negli stabulari. Nei laboratori, però certo molti animalisti dicono è una pratica incivile, una pratica barbara, una pratica che tra l'altro non serve al progresso scientifico. Noi vi chiediamo vivisezione in nome della ricerca scientifica. Voi siete d'accordo? Io faccio la mia premessa. Io ho un gatto, gli voglio molto bene. Si chiama Nemo. Quando mi dicono che l'hai chiamato come un pesce, dico che ho preso prima il gatto ed è la Walt Disney che ha copiato il nome, ha chiamato il pesce come il mio gatto. Però, insomma, dico anche, forse è un'impostazione sbagliata, ma tra la vita di un gatto e la vita di un bambino, per me è più importante la vita di un bambino, mentre molti dicono no, sono sullo stesso piano. Comunque, io saluto il professor Giuseppe Remuzzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Così come saluto Michela Quan, che è biologa della LAV, la Lega Antivivisezione, buongiorno e benvenuta. Eccoci, buongiorno. Saluto anche una scrittrice intellettuale, mi fa molto piacere averla con noi perché ha preso posizione su questa tematica, Dacia Maraini, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, professor Remuzzi, io partirei da lei perché lei è nella posizione di scienziato a dire, uso questo termine, vivisezione, poi lei mi dirà che magari è un termine un po' retrogrado, eccetera. Serve per la scienza, come ha detto il Nobel Mario Capecchi, è così? Ma serve assolutamente per la scienza, non è possibile sviluppare farmaci o immaginare nessun progresso della scienza ancora oggi senza passare attraverso gli animali. Il sondaggio, lei ha subito anticipato il problema molto bene, in realtà vivisezione, cioè sezionale, l'atto del tagliare qualcosa che è vivo, ecco, il sondaggio facciamolo su sperimentazione animale sì, sperimentazione animale no, piuttosto che vivisezione, perché proprio il termine vivisezione è assolutamente inappropriato. E calcoliamo che ogni giorno in Italia migliaia di uomini vanno incontro a vivisezione durante un intervento chirurgico, sezionare una persona viva, e questo intervento chirurgico qualche volta va male, ma nell'80% dei casi risolve il problema e consente a questa persona che è andata incontro a un atto di vivisezione di tornare a una vita normale. Qui il tema però è anche la sperimentazione sugli animali, che provoca, ovviamente si possono ridurre al massimo le sofferenze e il dolore, ma chiaramente provoca dolore, sofferenza. Non saranno certo contenti quegli animaletti di essere lì, no? Per essere sottoposti a sperimentazione. Non lo so, poi la cosa è molto più complessa di così. Per esempio, noi recentemente abbiamo sperimentato un farmaco nel ratto e i ratti che hanno preso il farmaco attivo in rapporto a quelli che hanno preso invece un farmaco finto, cioè il placebo, hanno vissuto il 30% di più. Erano degli studi per vedere se si può migliorare la qualità di vita dell'uomo nelle fasi più avanzate della vita. Quindi questi animali, per esempio, hanno vissuto di più dei controlli. Ma ha preso proprio il caso che mi mette un po' spalla al muro. Però, professore, non sarà così. Ci saranno anche sofferenze da parte degli animali, no? Ma guardi, io penso che la prima cosa che bisogna dire quando si parla di sperimentazione animale, si fanno sempre vedere delle vecchie foto di scimmie con degli elettrodi. Sì, c'erano ieri ovviamente anche sui giornali. E le foto sono sempre quelle. In realtà entrare in uno stabulario di ricerca oggi è come entrare in una sala operatoria, ci sono gabbie pulitissime, degli spazi adeguati, i sistemi di controllo sono sofisticatissimi, non entrano tutte le persone, per esempio, perché non vogliamo trasmettere malattie agli animali, le leggi che proteggono gli animali sono severissime e sono molto più severe, le dico, di quelle che proteggono gli uomini. Allora io vorrei, da Michela Quan e da Dacia Maraini, Michela Quan, perché voi criticate, se criticate questa impostazione dell'Unione Europea e questa impostazione della scienza, dire c'è massimo rispetto per gli animali e poi serve questa sperimentazione? A chi sta parlando? Io vorrei fare una premessa, visto quello che lei ha detto prima, che nessun animalista, e comunque l'approccio in generale dovrebbe essere di non confrontare ancora il valore dell'animale col valore della vita umana. Dice. Nessuno cerca di mettere sullo stesso piano questi due concetti, il punto fondamentale di partenza, cerchiamo di tutelare la vita animale e cerchiamo di tutelare ovviamente anche la vita umana. È giusto parlare di sperimentazione animale e non di vivisezione, perché quando ad esempio prendiamo in considerazione esperimenti fortemente invasivi che comportano giorni se non settimane in cui l'animale è sottoposto comunque a test di tossicità o altri tipi di esperimenti, deprivazione del sonno, rottura di ossa, ci sono applicazioni degli animali in moltissimi campi, non su tanti farmaci, noi parliamo di animale cosciente, vivo, però non di vivisezione. In ogni caso l'animale viene procurato un danno dal punto di vista del dolore sia fisico che psicologico. Il discorso legato alla direttiva era che nessuno ha proposto l'abolizione della sperimentazione animale in questo contesto legislativo, si proponeva che vigessero regimi di trasparenza, quindi maggiori controlli, valutazioni retrospettive, l'impostazione dei comitati etici obbligatori in tutti i centri di ricerca e anche negli stabilimenti allevatori. Cioè si cercava di avere la maggiore tutela possibile degli animali, sì, e il rispetto verso l'implementazione. E c'è stata secondo lei? C'è stata secondo lei questo rispetto? No, purtroppo la proposta della Commissione del novembre del 2008 era decisamente più a favore sia dei metodi alternativi che della tutela degli animali da laboratorio. Poi nel tempo sono state introdotte delle deroghe, sono stati tolti degli emendamenti, votati a favore invece di nuovi emendamenti che hanno allargato la maglia delle possibilità e quindi limitato quello che era la tutela iniziale. Quindi non siete soddisfatti. Ecco, Dacia Maraini, io non la voglio far entrare in campi scientifici, lei ha detto giustamente in un'intervista ieri al Corriere della Sera, non è una scienziata, però ha aderito a questo appello, la coscienza degli animali, ha posto questa domanda, secondo me molto interessante. Ma chi l'ha detto che l'uomo deve sempre stare al centro dell'universo e gli altri esseri viventi debbano sacrificarsi per lui? Cioè, la mia impostazione iniziale, a lei non piace il paragonare la vita, il valore della vita di un essere umano con quello di un animale? Sono alternativi. Naturalmente noi siamo vicini alla nostra specie, ci sentiamo partecipi, difendiamo la nostra specie, questo è giustissimo, ma la nostra specie non rischia l'estinzione, mentre ci sono moltissimi animali che rischiano l'estinzione. E ci sono animali che sono sulla Terra molto prima di noi, da molto prima di noi, e non siamo noi i padroni della Terra. Io credo che questo sia un rispetto verso la vita, verso la natura. Noi ci comportiamo come dei dittatori, dei tiranni, delle persone che credono di essere il centro dell'universo, di avere tutti i diritti, e che tutti gli animali e tutti i vegetali anche, tutto, cioè la terra stessa, sia al servizio dell'uomo. E se non ci sta, si distrugge. Questa è un'idea, è un concetto androcentrico, secondo me, anche non solo disumano, ma anche ingiusto e sbagliato proprio per la conservazione della terra. La terra ha bisogno di tutti i suoi esseri viventi, ha bisogno delle piante, ha bisogno delle foreste che noi stiamo distruggendo, ha bisogno dell'acqua, ha bisogno di un territorio sano e ha bisogno anche degli animali. E quest'idea che l'animale deve essere sacrificato per il bene dell'uomo, io non sono d'accordo. Ma forse sacrificato no, però diceva il professor Garattini, e credo che Remuzzi ce lo potrà confermare, che proprio in maniera concreta, per questo io ho messo lei dice non sono comparabili, ma ho fatto questa impostazione di comparazione, se abbiamo cure, leggo da Garattini, contro leucemie, contro il diabete, contro certi tumori, se le abbiamo è perché abbiamo fatto e facciamo la sperimentazione sugli animali. Guardi, io non sono una specialista, non posso dire approfondire, però ho sentito degli scienziati dire che moltissime di queste sperimentazioni sono inutili e poi soprattutto sono inutili perché riguardano anche, per esempio, ragioni che riguardano il campo dei cosmetici, per esempio. Quello non, eppure c'è un enorme, pensi che ci sono 12 milioni di animali da sperimentazione. Questo sono cose che dicono gli specialisti, non lo dico io. 12 milioni di animali che noi teniamo lì a soffrire, e non sono tutti topolini e ratti, ma sono anche animali molto più grandi, molto più vicini all'uomo, che hanno una sensibilità molto più vicina all'uomo. E mi sembra un po' grottesco dire che la povera scimmia mi sei stato contento perché gli ha allungato la vita. Questo veramente mi sembra paradossale. La sofferenza che comporta un animale tenuto in gabbia, tenuto sotto osservazione, su cui anche se non lo si taglia, poi sulle parole non possiamo anche discutere sulle parole, vivisezione o non vivisezione, non è questa. Dice c'è già la sofferenza di un animale che sta lì invece di stare dove vorrebbe stare, nel suo ambiente naturale. Ma vengono inoculate delle malattie per poi trovare la cura. Scusi, è questo. Perché non lo facciamo sugli uomini? Perché non lo facciamo sugli uomini? Perché sarebbe una sofferenza terribile. La sperimentazione di un farmaco passa anche attraverso una sperimentazione. È volontaria. Comunque l'animale non è volontario. No. Secondo me c'è veramente una mancanza di sensibilità, di capire che l'animale soffre. Scusi, un'altra cosa, soltanto per mettere in confronto, per esempio, l'animale d'allevamento, no? Che viene tenuto in stalla, chiuso con la... parlo delle mucche, dei vitelli, dalla nascita, che non ha nemmeno un momento, un'ora di stare all'aperto, di godersi la vita. Io questo, per esempio, lo trovo una cosa mostruosa. Ecco, per esempio, questo non è necessario, non è necessario. Potrebbe benissimo tenere le vacche all'aperto, per dire che c'è la nostra presunzione che la sofferenza degli animali non conti nulla rispetto alla salvaguardia delle nostre sofferenze. Questo, secondo me, è sbagliato. È una presunzione sbagliata. Allora do le informazioni sul traffico. Andiamo a vedere come va il traffico, poi ripartiamo. Qualche ascoltatore, c'è da dire che il 65% per ora dice no, certo, a questo termine vivisezione, oppure mettiamo sperimentazione sugli animali. Tra un attimo. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Allora, secondo voi è giusta la sperimentazione sugli animali per la ricerca scientifica? Voglio sentire che ne pensa Massimiliano da Milano. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, dica. Grazie dello spazio. Dica, dica. Premetto che conduco una rubrica di ecologia e rispetto per l'ambiente che si intitola Earthlings, in difesa di tutte le specie viventi, su una web radio. Benissimo. La sperimentazione animale non solo non produce risultati affidabili in termini scientifici, ma il concetto antropocentrico espresso dalla grande Dacia Maraini è perfetto. Ha già detto lei quello che avrei detto io. Cioè, l'uomo non può pretendere di essere al centro a scapito degli altri esseri umani, esseri viventi. Diciamo che lo fa, ma non è giusto. Lo fa, ma non è giusto. Va bene, grazie Massimiliano. Marco, da Milano sempre, buongiorno. Buongiorno. Dica, Marco. Io penso che sia utile per l'uomo eseguire queste sperimentazioni. Indubbiamente è una sofferenza per gli animali, ma non sono molto d'accordo sul discorso della coscienza, poiché l'animale ha solo un'anima e un corpo, a differenza dell'uomo che ha anche uno spirito e una coscienza. Quindi se l'uomo si nutre con gli animali e gli animali sono di aiuto allo stesso tempo per quanto riguarda la ricerca scientifica per il bene dell'uomo, sono favorevole. L'unica cosa è l'accanimento, piuttosto che invece, non so, fa soffrire ingiustamente senza nessun scopo. Questo è chiaro, diciamo, la direttiva europea nasce proprio in questo, cioè di cercare di lenire e di stabilire tutti i principi per i quali bisogna limitare al massimo, come è giusto, anche per chi, anche immagino per il professor Remuzzi, cioè limitare al massimo tutte le sofferenze per gli animali da laboratorio. Però qua, professore, due cose. La prima è che si mette in dubbio proprio l'utilità dal punto di vista scientifico. E poi abbiamo letto dalla direttiva che è addirittura possibile in alcuni casi, anche se in Italia è vietato per legge, ma in altri paesi potrebbe essere l'utilizzo, nel caso fosse necessario, non ci sono altre specie, di cani e gatti randagi, anche come cavie. Ecco, su questo punto almeno lei, professore, che ne pensa? Ma guardi, questa è cattiva ricerca. Fare ricerca su cani e gatti randagi non è possibile, perché vuol dire portare nei nostri stabulari malattie, non avere una situazione di controllo. No, gli animali devono essere tutti uguali perché la ricerca possa dare dei risultati, quindi questo lo eliminiamo subito, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non si dovrebbe fare, noi siamo i primi ad essere contro pratiche di questo tipo. Il problema se la sperimentazione sugli animali serve o non serve, non è che si risolve se io dico che serve e un altro dice che non serve, portando nessun argomento. Facciamo un esempio molto chiaro, ed è la storia dei trapianti. La storia dei trapianti è cominciata a Boston, è stata fatta da un grande chirurgo, Joseph Mare, che prima di mettere a punto un'operazione perfetta ha dovuto operare quasi 600 cani. Quell'intervento di 50 anni fa ha aperto la strada a tutti i trapianti. Abbiamo milioni di persone che hanno avuto una vita normale o quasi normale nel mondo grazie a un trapianto. Mare nel 90 ha avuto il premio Nobel. L'hanno intervistato a Stoccolma, quando si va lì, c'è il re, tutti vestiti bene, eccetera. Non c'è niente di più ridicolo, ha detto, che pensare che tutto questo si sarebbe potuto fare con un computer o con le cellule in cultura. Ah, senti, come però, dire che si può vivere senza respirare o senza avere il sangue. Però ho sentito, cioè la questione, lo so, è meno scientifica, se vuole, più filosofica, che Dacia Maraini ci ha posto, cioè l'aspetto antropocentrico, cioè pensare che l'uomo sia al centro, sia superiore, sia il padrone del mondo. Certamente, e per questo, certamente. Questo è un altro problema, questa è filosofia, qua io mi fermo. E allora, se gli spettatori, se chi risponde al sondaggio, se la maggior parte delle persone, se i legislatori sono convinti che la zanzara, ho scritto recentemente una cosa sul fatto che estinguere le zanzare, se fossimo capaci, risparmierebbe la vita ogni anno a 5 milioni di bambini, ma se l'uomo non ha il diritto di distruggere la zanzara perché per la vita dei bambini, allora qui ci fermiamo. Se siamo tutti convinti di questo, però avremmo ancora la peste, non avremmo vaccinazioni per le malattie infettive, si morirebbe di morbillo, si morirebbe di polmonite, molti dei signori che hanno parlato potrebbero avere un parente col diabete, che è la malattia più diffusa che ci sia, l'abbiamo curato grazie alla ricerca degli animali. Non c'è assolutamente nulla di tutto quello che noi facciamo ogni giorno in campo medico che non dipende dalla ricerca sugli animali. Su questo, Dacia Maraini, mi faccia fare questa provocazione: una zanzara val bene un'uccisione? Questo è terrorismo, perché nessuno l'ha messo su questo piano. È ridicolo pensare che si metta l'essere umano a livello della zanzara. Noi si sta parlando di animali in estinzione, per esempio, di un eccesso, si sta parlando dell'eccesso. Quando io dicevo, appunto, per esempio, tenere le vacche, io sono vegetariana, però accetto che si possa, non è che lo posso imporre agli altri, sì, capisco che si mangi la carne, però io dico, almeno però date la possibilità a queste mucche di vivere almeno qualche ora, almeno qualche anno, qualche tempo sull'erba, di avere il diritto a una parte di vita. Ecco, invece si fa questa, per esempio, appunto l'allevamento intensivo è una cosa mostruosa, anche le galline chiuse dentro delle gabbie piccolissime dove non si possono muovere, ingozzate di cibo, cioè è l'eccesso che disturba. Non stiamo mettendo, perché se la mettiamo così diventa troppo facile, è chiaro che l'essere umano ha dei privilegi, certamente, però non, l'eccesso è l'abuso del privilegio, è quello che lo rende. È l'eccesso che disturba. Ecco, è l'eccesso. Io vorrei, da Michela, sì, cioè tenere conto della sofferenza degli animali, tenerne conto. Ora, loro, la cosa europea dice che ne tengono conto, in realtà no, perché hanno aperto a nuove possibilità di fare sperimentazione sui cani e sui gatti. Questa è una cosa orribile, che però in Italia, vogliamo dirlo, sono vietate per legge, non sarà mai recepita questa parte della direttiva. No, ma ci mancherebbe. Michela Kwan, voi avete accusato anche una lobby, la lobby delle industrie farmaceutiche, a fare pressione per ottenere quello che hanno ottenuto. Ci vuole spiegare che tipo di pressione sarebbe? Prima purtroppo si sentiva male, volevo sottolineare un discorso, visto che sono stati fatti vari interventi, che la nostra associazione si batte per, diciamo, contro la sperimentazione animale, ovviamente da un punto di vista etico che va preso in considerazione, ma anche da un punto di vista scientifico. Io non a caso, cioè nel senso, essendo biologa, comunque vado contro il modello animale come modello di riferimento per la ricerca scientifica, in quanto obsoleto e non attendibile. Sono stati fatti degli esempi prima dall'altro interlocutore, che comunque del progresso della scienza dovuta agli animali, ma sono stati dimenticati tanti altri esempi in cui la sperimentazione sugli animali ha provocato grandissimi danni nella storia dell'uomo e continua a farlo. Ne sono una testimonianza dei 250.000 morti all'anno solo negli Stati Uniti dovute a causa iatrogene, cioè dovuto alla assunzione di molecole farmaceutiche sbagliate, e il fatto che il 90% dei farmaci non passa la sperimentazione clinica. Quindi un metodo, lei contesta proprio che sia statistiche, evidentemente non è un metodo da prendere di riferimento. Lei contesta che sia scientificamente valida, cioè che sia proprio scientificamente utile. Diciamo che è un tipo di ricerca che è ormai superato, esistono i metodi alternativi, quindi siccome abbiamo anche l'onore di ospitare in Italia il centro di validazione dei metodi alternativi, che ha una standardizzazione dei metodi altamente rigida e riproducibile in tutti i laboratori del mondo, quello che lascia assolutamente perplessi è che, nonostante vengano continuamente validati questi metodi, i numeri legati alla sperimentazione animale non siano in diminuzione. Io non però dico lo zero, però dovrebbe esserci questa tendenza, invece purtroppo anche l'autorizzazione animali rilasciati in deroga per sperimentazione molto invasive, il numero degli animali purtroppo non diminuisce. Allora, io però su questo no, sulla questione della validità dal punto di vista scientifico, forse come dice il professor Remuzzi, insomma, ci scontriamo un po', scorniamo un po' e ognuno tiene la sua posizione. Però mi è molto interessato questo dibattito. Voi, io mi devo fermare qui, continuate a votare il sondaggio su Radio24.it, per ora sempre il 63% dice di no alla sperimentazione scientifica. Ringrazio tutti per essere intervenuti, al professor Remuzzi, Michela Quan della Lega Antivivisezione e Dacia Maraini, intellettuale, scrittrice, Valeria Coffaro in redazione, che dire, anche Peter Bescapè con la sua penna nera è pronto a dare la linea Oscar Giannino. Noi ci troviamo quando? Oggi è venerdì, lunedì alle 7:20. A tutti, buon weekend.